Questa idea nasce da un percorso che nasce dalle problematiche che il quartiere della Bolognina sta vivendo in questo periodo qua, delle quali non dobbiamo sicuramente nasconderci, ma delle quali vogliamo parlare e farle emergere. La spaventosa epidemia di crack che stiamo vivendo qua in quartiere, il piano della militarizzazione e conseguente propaganda d'odio che le destre stanno portando avanti come unica risposta all'emergenzialità che si stanno vivendo. Da questa è nata una fitta rete di realtà che si sono messe in gioco in quest'ultimo periodo per provare a cambiare non solo la narrazione ma qualcosa nel concreto. È partito così negli ultimi mesi un grande piano di inchiesta che ci ha visto essere nelle piazze, da Piazza dell'Unità al Mercato Albani, fino ad arrivare alle corti popolari come Corte 3, Corte Albani, Corte 5, fino ad arrivare a Carracci Casa Comune, che ci ha permesso di stare sul territorio, rifar rivivere le nostre piazze, riniziare a riconoscersi, riaprire un piano dell'inchiesta e ritrovare quello spirito partigiano di parte che ci ha fatto e ci ha spinto a dire: proviamo a costruire un 25 aprile, proviamo a rivivere le piazze, a risignificare anche quella giornata in queste zone così colpite e lacerate da tante problematiche, per provare a far riemergere quello che è stato costruito in questi mesi qua, con le 57 realtà che appunto stanno dando vita a questa giornata. Tra l'altro, se parliamo di resistenza, insomma, la Bolognina ha una storia anche importante, con una celebre battaglia appunto partigiana che si condusse lì. Cosa succederà il 25 aprile e dove? Allora, il 25 aprile quindi sarà così impostata la festa. Saremo proprio nelle vie nel cuore della Bolognina, tra via Albani, via Antonio Di Vincenzo e via Serra. Le strade saranno chiuse, saranno concerti, uno spazio dibattiti, una piazza per i bambini in fondo al Mercato Albani, per consentire anche famiglie, bambini, poter restare per tutta la giornata. E quindi tutto inizierà alle 12:30. L'inizio della festa prevede una pasta asciutta antifascista, il cui ricavato sarà offerta libera, andrà tutto destinato a i ragazzi delle corti popolari che vivono i nostri dopo scuola qua in quartiere e che appunto magari non hanno accesso ai campi estivi o non possono permettersi una vacanza estiva. Quindi abbiamo deciso di lasciare un contributo al quartiere a questi ragazzi per permettergli quest'estate magari di avere anche un'estate felice. Quindi dalle 12:30 la pasta asciuttata antifascista, alle 14:30 si proseguirà con la passeggiata partigiana per andare appunto a risignificare i luoghi della resistenza, i più emblematici, tra cui appunto le questioni legate alla battaglia della Bolognina, ai tanti partigiani, le partigiane della Bolognina, del Navile, che hanno lasciato e dato la vita per la resistenza e per la liberazione di Bologna dal nazifascismo. E proprio sempre dalle 14 si partirà con la musica dal palco principale e con tutte le altre attività collegate. Avremo due palchi, avremo delle incursioni musicali e abbiamo un bel po' di artisti provenienti dalla Bolognina, ma non solo, tra cui Claver Gold, che sarà presente come chiusura di questa giornata, che sarà appunto alle 21:30-22. Poi abbiamo tutta una piazza dedicata ai bambini e alle bambine, dove saranno varie realtà e collettivi che si stanno dando e susseguendo nella costruzione della giornata dedicata proprio per loro, e quindi susseguiranno attività dallo sport popolare antifascista, quindi sarà tutta la questione con la Bolognina Box, la box popolare, avremo la pallavolo, avremo il rugby, ci saranno le pitture murarie, ci saranno i giochi ecologici con Bologna for Climate Justice, saranno tutti i ragazzi della Casa del Mondo che faranno altre attività e l'area gonfiabile a disposizione per tutta la giornata. E poi all'interno della festa invece avremo lo spazio dibattiti, avremo due momenti di dibattiti organizzati dalla libreria Sette Volpi e da Plato, la piattaforma di intervento sociale, e la Bolognina come stai, questo nuovo contenitore della Bolognina che sta avendo grande successo e risalto nel piano dell'inchiesta territoriale, e vedrà alle 15 la presentazione collettiva di La Scelta Giusta, che sono quattro storie sulla resistenza insieme all'autore Emilio Drudi, mentre invece alle 17 sarà la chiacchierata sul quartiere. Entriamo più nello specifico delle problematiche di questo piano di inchiesta messo in campo negli ultimi mesi, e con Bolognina come stai e la piattaforma di intervento sociale discuteremo con Maurizio Bergamaschi dell'Università di Bologna delle problematiche e di cosa possiamo fare e del che fare oggi in un piano della rivendicazione su spazi, soldi e servizi, che sono come abbiamo declinato oggi l'intervento nel quartiere, le richieste che sono emerse da questi mesi qua di interviste, domande e inchiesta. Quindi anche la memoria può essere uno strumento aggregante per dare risposte diverse a quelle securitarie, nel segno invece della comunità. Esatto, la memoria come meccanismo, come strumento per poter incidere nuovamente sul presente. C'è una bellissima intervista che abbiamo fatto, che potete trovare sulla pagina Instagram di Bolognina Antifascista, che come oggi la memoria può essere attualizzata. Abbiamo fatto un giro di interviste all'interno del quartiere in cui gli anziani, i giovani, i meno giovani hanno potuto rispondere e dare un significato a cosa vuol dire memoria oggi e cosa vuol dire memoria oggi in Bolognina. Quindi crediamo che questo possa essere un altro degli aspetti con cui non risignificare, ma ripartire dalla memoria per attualizzare utilizzarla nel contesto attuale di guerra, di crisi e delle problematiche che proprio vanno a mutarsi, a condensarsi in un quartiere come quello della Bolognina.